Scuola in controluce. L'avete sentito anche nel nostro GR24, sono uscite dunque le materie della seconda prova scritta della maturità: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico, ma ne abbiamo citate solo alcune, perché per le altre potete andare sul nostro sito radio24.it e sulla pagina di Scuola in Controluce trovate tutto l'elenco. Si parte con la prima prova scritta il 19 giugno. Conto alla rovescia dunque per chi si avvia al diploma o ci spera quantomeno, conto alla rovescia anche per le famiglie che in questi giorni sono alla prese, come sapete, con le iscrizioni alla prima classe di ogni ordine e grado, quindi primaria, secondaria di primo e secondo grado. Lo ricordiamo ancora, c'è tempo fino al 28 febbraio. Le iscrizioni da quest'anno, come ormai sanno anche i muri, sono obbligatoriamente online, ma solo per le scuole statali. Modello cartaceo, dunque ancora buono per paritarie e scuole dell'infanzia. Non sono stati pochi problemi in questi giorni. Il sistema, infatti, come sapete, perché ve l'abbiamo raccontato nei GR, ha mostrato tutti i suoi limiti. In primi giorni è anche andato un po' in tilt. Soprattutto ci sono stati problemi per le famiglie straniere, ma di questo abbiamo parlato ampiamente. Oltre al disagio delle famiglie, invece, forse questo l'abbiamo raccontato poco, c'è il disagio in questi giorni delle povere scuole, perché sono tenute a prestare assistenza a chi non abbia un computer o non sappia usarlo. Le scuole, infatti, sono tenute ad aiutare tutte le famiglie che lo richiedano, o perché non hanno un computer o perché non lo sanno usare, ma anche banalmente perché le famiglie magari sono ansiose, vogliono essere sicure di aver messo bene la domanda in rete. Quindi le scuole sono tenute a mettere a disposizione, pensate, una sala informatizzata con la presenza di personale scolastico che deve fornire le opportune delucidazioni ai genitori. Sala informatizzata, ovviamente con linea ADSL, personale scolastico a disposizione. Questa mattina la rivista Tutto Scuola parla di libro dei sogni per molte scuole, soprattutto per gli organici del personale amministrativo che, come sappiamo tutti, sono ridotti all'osso. Allora sentiamo, andiamo a sentire queste scuole, come se la stanno cavando, e andiamo in Sicilia in particolare. Siamo in diretta con Pinella Giuffrida, che è un dirigente scolastico di ben due istituti, una scuola primaria di Siracusa e un'Ipsia di Catania. Buongiorno. Buongiorno. Chissà come sarà comoda a gestire una scuola a Siracusa e una scuola a Catania. Non mi lamento. Comodissima. Allora, come sta andando da lei? Che problemi ci sono, se ce ne sono? Magari possiamo anche dire che non ci sono, eh? No, purtroppo devo dire che ci sono in realtà. Lei ce l'ha la sala informatizzata? La nostra scuola è assolutamente informatizzata, tutte e due lo sono, e in realtà è stato nostro interesse mettere in piedi una sorta di task force che potesse aiutare le famiglie a gestire queste iscrizioni online. Sia la primaria che all'Ipsia? Sì, per fortuna che avevamo pensato in effetti a questa evenienza, proprio perché alla primaria in maniera particolare abbiamo registrato un 72% dei genitori che è venuto a scuola per l'assistenza. Quindi il problema è che vengono troppe persone poi alla fine. non pensavamo così tante, e in effetti nei primi due giorni siamo andati in tilt, poi però siamo riusciti ad andare a regime e abbiamo cercato di dare loro una mano. Ci siamo anche chiesti perché, probabilmente. Ma non hanno il computer? Che problema c'è per queste famiglie? No, in non realtà lo sanno usare. Di loro, probabilmente, ha detto bene lei, sono ansiosi, perché forse i ragazzini sono piccolini e hanno questo genere di ansia, e poi questi genitori chiaramente non sono nativi digitali e quindi hanno difficoltà comunque ad adoperare le macchine e soprattutto a navigare in internet o a compilare form online. In realtà però questa cosa non è avvenuta al Fermi a Catania. Probabilmente, me lo sono spiegato, è possibile che invece i ragazzi più grandi, che sono nativi digitali, hanno dato l'hanno una mano ai loro genitori a compilare i form, proprio perché a Catania si è invertita assolutamente la tendenza: il 70% dei genitori ha spedito la domanda online ed è andata a buon fine, e quindi questo per noi qui a Catania almeno è stato un sospiro di sollievo, ci ha consentito insomma di vivere questo momento. Quindi voi avete sia alla scuola primaria di Siracusa sia che all'Ipsia di Catania una sala informatizzata con personale scolastico pronto a ricevere le famiglie che insomma vogliono assolutamente assistenza tecnica. Sì, organizzati così. Bravi. In effetti ormai bravissimi. In tantissime scuole. Protestano in segreteria? No. No, ah, sono contenti pure. Ma tutti si rendono conto comunque che non è un dover fare, un obbligo a fare, ma è un bisogno. È un servizio, di fare, un servizio. Grazie, grazie ad Pinella Giuffrida. Ci trasferiamo invece a Roma. Vogliamo sentire anche Laura Bellanova, dirigente scolastica della scuola media Tona. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno dottoressa Cece. Anche voi, sala informatizzata, tutto a posto? Sì, diciamo che anche noi abbiamo superato la fase dell'emergenza dei primissimi giorni. Devo dire che, contrariamente a quanto sentivo dalla collega di Siracusa e Catania, soltanto il 18% dei genitori, nel nostro caso, si è rivolto direttamente allo sportello. E finora invece insomma sta proseguendo abbastanza bene la richiesta informatizzata. Devo dire che la difficoltà maggiore, per quanto ci riguarda un po' in tutti i livelli e gradi di scuola, è la richiesta per quanto attiene gli alunni stranieri di prima generazione, perché per quanto riguarda quelli di seconda generazione ormai sono ragazzi che sono inseriti nel nostro sistema. Sì, ci sono stati problemi, ma insomma su questo devo dire che il MIUR è già intervenuto, ha detto in effetti ci sono dei problemi, insomma non ci sono delle caselline in cui poter mettere i propri dati. In questi casi andate in segreteria e lasciamo perdere, perché proprio il sistema non è in grado. Bene, infatti. Sarà contento il ministro Profumo di sentire che anche a Roma è tutto a posto, non si registrano. Devo dire però una cosa, che è vero che le segreterie hanno un atteggiamento, come sempre cerchiamo di avere un atteggiamento di servizio nei riguardi dell'utenza, perché questo per chi lavora poi nella scuola e con le giovani generazioni mi pare oltremodo necessario. Però è vero, e poi fanno il loro lavoro, quindi insomma. Però è vero che questo tipo di attività ha intensificato in qualche modo l'impegno lavorativo di questi giorni e certamente insomma a volte ci sono alcuni momenti in intoppini, cui si avverte il peso. Il sovraccarico. Dire che probabilmente ecco c'è anche il fatto che c'è stata un po' una corsa nei primissimi giorni, dimenticando che comunque c'è tempo fino al 28 e quindi c'è tempo. Ma sentiamo invece Luciano Castrignano della Rete degli Studenti Medi, perché insomma in realtà è vero che abbiamo dipinto questa mattina una situazione abbastanza regolare e ne siamo anche contenti, perché non bisogna raccontare solo quello che non va ma anche quello che va. Però la Rete degli Studenti Medi ha istituito da qualche giorno un numero proprio a disposizione delle famiglie. Luciano Castrignano, possiamo darlo questo numero? Sì, intanto buongiorno. Buongiorno. Il 347-7181-789. Ok, per chi avesse difficoltà, soprattutto insomma volesse chiedere qualche informazione. E voi che problemi segnalate ancora invece? Le telefonate soprattutto che vi arrivano, che problemi segnalano? Sì, essenzialmente il nostro numero è un numero di assistenza per le famiglie che insomma. E che chiedono? E ci chiedono un po' di tutto, dal perché il server è bloccato, al come si fa a compilare un modulo, sulla compilazione del modulo, anche e soprattutto coloro i quali hanno delle problematiche con i cittadini stranieri, non riuscivano a trovare per esempio nell'elenco delle province la dicitura estera, non riuscivano a fare questo insomma. Ma il MIUR su questo ha alzato le mani, ha detto basta, andate in segreteria, non ce la facciamo a sistemare il bug, come possiamo definirlo? Sì, no, più che un bug è stato un problema organizzativo a monte. Esatto, non ci avevano pensato, vabbè. Pian pianino si metterà a rodaggio. Grazie, grazie anche a te, grazie a Luciano Castrignano della Rete degli studenti Medi. Mi ritaglio 30 secondi per dare questa notizia importante relativa sempre al mondo della scuola, perché il TAR del Lazio ha accolto un ricorso dell'ANIEF, un'associazione che sentiamo spesso peraltro a scuola in controluce, contro la soglia di 35 cinquantesimi alle preselezioni del concorsone per essere ammesse alle prove scritte. Insomma, si era detto che il MIUR aveva detto che accedeva alla prova scritta soltanto chi avesse conseguito almeno 35 punti su 50. In realtà l'ANIEF ha fatto sapere che stamattina è stato accolto il ricorso del TAR del Lazio, verranno accolti anche quelli che hanno preso solo 30 cinquantesimi, quindi questa soglia. Tra l'altro vi ricordo che siamo alle alla vigilia ormai della prova scritta che si terrà nella prima giornata l'11 di febbraio. Mi sembrava importante chiudere con questa informazione, ve l'abbiamo detto, oggi sono uscite le materie invece della seconda prova scritta della maturità, le trovate sul sito radio24.it da cui potete anche scaricare la puntata di oggi di Scuola in Controluce se la volete riascoltare e io vi saluto. Un saluto da Maria Piera Ceci. Scuola in Controluce.